La grande riunione, che doveva concludere il processo, iniziò con spiriti pacifici. La gente della fattoria era lieta di vedere Kinangui. Gli squatters più anziani si alzarono e vennero a scambiare qualche parola con lui. Poi tornarono ai loro posti sull'erba. Due vecchie dall'ultima fila mi strillarono un saluto. Jumbo Jerry! Jerry è un nome Kikuyu, così mi chiamavano le vecchie, e spesso anche i bambini, ma mai gli uomini, né giovani né vecchi. C'era anche Kaninu, al centro della sua numerosa famiglia, gli occhi brillanti, lo sguardo penetrante, pareva uno spaventapasseri divenuto chissà come vivente. Arrivò Wainaina con la madre e andarono a sedersi un po' in disparte dagli altri. Dissi lentamente e con autorità che la questione fra Canino e Wainaina doveva ritenersi appianata. Il patto era già conchiuso e messo nero su bianco. Kinangui si trovava alla fattoria per dare il suo avallo. Canino avrebbe consegnato a Wainaina una mucca e un vitellino di latte, e con questo la faccenda, ormai intollerabile per tutti, era definitivamente chiusa. Canino e Wainaina erano stati informati della decisione. Canino aveva l'ordine di tenere pronte le bestie. Quanto a Wainaina, le sue trame erano di natura sotterranea. Alla luce del giorno sembrava molle e arrendevole come una talpa fuori della tana. Letto il contratto, invitai Canino a condurre la vacca. Il vecchio si alzò, agitò ripetutamente le braccia in direzione dei due giovani figli che tenevano la vacca dietro la capanna dei servi. Il circolo si aprì per far passare le due bestie, che vennero trascinate lentamente nel mezzo. Di colpo, l'atmosfera dell'assemblea mutò, come quando nubi temporalesche compaiono all'orizzonte raggiungendo in pochi istanti lo zenit. Per i Kikuyu non v'è nulla al mondo che valga quanto una vacca col suo vitellino di latte. Delitto, stregoneria, sesso, meraviglie della civiltà, tutto svapora e scompare dinanzi alla fornace ardente della loro passione per il bestiame, che ha il sapore dell'età della pietra, come un fuoco sprizzato dalla selce. Indicando la vacca col braccio magro e vizzo, la madre di Wainaina ruppe in un lungo lamento. Wainaina la imitò, balbettando frasi mozze, come se qualcun altro parlasse dentro di lui, elevando al cielo le sue grida. Non voleva accettare la vacca. Era la vacca più vecchia del gregge di Caninu e il vitello era certamente l'ultimo, non ne avrebbe partoriti più. I familiari di Canino si misero a strillare e gli troncarono la parola in bocca, mitragliandolo con l'inventario di tutti i pregi della mucca. Nella loro violenza trasparivano una grande amarezza e il disprezzo della morte. La gente della fattoria non aveva nessuna voglia di starsene zitta in materia di vacche e di vitelli. Ognuno pretendeva di dire la sua. I vecchi si afferravano per il braccio, cacciando fuori la loro ultima riserva di fiato asmatico per gridare le loro convinzioni sui pregi o i difetti della mucca. Le vecchie mogli si intromettevano con le loro voci stridule, facendo eco come in una litania. I giovanotti enunciavano brevi sentenze implacabili con voce baritonale. In pochi minuti lo spiazzo davanti alla mia casa ribollì come il calderone di una strega. Guardai Farah e lui guardò me, ma come uno che sta sognando. Era, mi accorsi, una spada sguainata a metà. Di lì a un istante avrebbe cominciato a menar colpi a destra e a sinistra nella zuffa. Anche i somali sono proprietari e mercanti di bestiame. Canino mi lanciò uno sguardo di uno che affoga, ormai trascinato via dalla corrente. Detti un'occhiata alla vacca. Era una vacca grigia, con le corna molto ritorte. Se ne stava pazientemente nel bel mezzo del ciclone che aveva suscitato. Quando tutti la indicarono con il dito, si mise a leccare il vitello. Non sapevo perché, ma aveva l'aria di essere proprio vecchia. Finalmente mi volsi verso Kinangui. Non so se avessi osservato la mucca, ma mentre lo guardavo non batté ciglio. Stava immobile, come una grande massa priva di intelligenza e di cuore, posata là, semplicemente vicino alla mia casa. Si voltò, mostrando il fianco alla folla vociante. Mi resi conto in quell'istante come il profilo sia la vera faccia di un re. Gli indigeni hanno la capacità di trasformarsi così, con un solo movimento, in materia, senza vita. Kinangui non avrebbe potuto pronunciare una frase o compiere un gesto senza far divampare ancora di più le fiamme della passione indigena. Per placarle, si limitò quindi a restarci semplicemente seduto sopra, cosa che nessun altro avrebbe fatto. La furia poco a poco si calmò, la gente smise di gridare, riprendendo il tono normale. Alla fine, uno dopo l'altro, si zittirono. La madre di Wainaina, pensando che nessuno la notasse, si avvicinò di qualche passo alla mucca, appoggiandosi al bastone per osservarla meglio. Farah si volse e tornò alla civiltà con un piccolo sorriso obliquo. Quando la calma fu ristabilita, facemmo avvicinare i due litiganti alla tavola di pietra, pigiare i pollici nel bitume e mettere le loro impronte digitali sul contratto. Quando fu il suo turno, Wainaina, riluttante, gemette come se la carta gli scottasse il pollice. Il contratto diceva: «Il seguente contratto è stato conchiuso a Ngong, oggi 26 settembre, fra Wainaina Wabemo e Canino Wamuture, alla presenza del capo Kinanjui che ne ha preso visione. Il contratto stabilisce che Canino pagherà a Wainaina una vacca con un vitello. La vacca e il vitello saranno dati al figlio di Wainaina, Wanyangeri. Ferito il 19 dicembre dello scorso anno da una fucilata sparata per errore dal figlio di Canino, Kabero. Vacca e vitello saranno proprietà di Wanyangeri. Col pagamento della mucca e del vitello, lo Shaorie sarà chiuso. Nessuno d'ora in poi dovrà più parlarne o menzionarlo. Ngong, 26 settembre. Impronta di Wainaina, impronta di Canino. Io ero presente e ho assistito alla lettura del contratto, impronta del capo Kinanjui. La vacca e il vitello sono stati consegnati a Wainaina in mia presenza. Firma della baronessa Blixen. Parte terza. Ospiti alla fattoria. Capitolo primo. Le grandi danze. Venivano molti visitatori alla fattoria. Nei paesi di pionieri l'ospitalità è una necessità di vita, non solo per chi viaggia, ma anche per i coloni. Un visitatore è un amico, porta notizie, buone o cattive, e nei posti solitari le notizie sono nutrimento per le anime affamate. Un vero amico che arriva a casa tua è un messaggero celeste, reca il panis angelorum. Quando Dennis Finch Hatton tornava da una delle sue lunghe spedizioni, aveva fame di parlare come ne avevo fame io. Così restavamo a tavola fino alle ore piccole, chiacchierando di tutto, ridendo di tutto, superiori a tutto. I bianchi, vissuti a lungo soli con gli indigeni, finiscono per dire sempre quello che pensano, perché non hanno né motivo né occasione di mentire. Anche se si ritrovano fra di loro, continuano a essere sinceri. Dalle loro maniatas ai piedi delle colline, pensavamo, i selvaggi Masai vedevano la nostra casa tutta illuminata come una stella della notte. Così i contadini umbri videro splendere la casa dove San Francesco e Santa Chiara discutevano di teologia. I più importanti avvenimenti mondani della fattoria erano le ngomas, le grandi danze indigene. In quelle occasioni avevamo fino a 1500-2000 ospiti. La casa però offriva un rinfresco estremamente modesto. Alle vecchie madri calve dei ballerini morani e alle nditos, le ragazze, davamo tabacco da fiuto. Ai bambini, quando venivano, Camante distribuiva dello zucchero con cucchiai di legno. Talvolta chiedevo al commissario del distretto il permesso di far preparare agli squatters il tembu, una bevanda micidiale ricavata dalla canna da zucchero. Ma i veri protagonisti, i giovani ballerini infaticabili, racchiudevano in loro la gloria e la pompa della festa. Immuni da ogni influsso estraneo, concentrati sul fuoco e sulla dolcezza che avevano in sé, al mondo esterno chiedevano una sola cosa: uno spiazzo liscio su cui danzare. Accanto alla mia casa lo potevano trovare. Il grande prato sotto gli alberi era in piano e il terreno fra le capanne dei servi nel bosco era stato livellato. Per questo la mia fattoria e gli inviti al ballo erano tenuti in gran conto da tutti i giovani del paese. Talvolta le engomas si tenevano di giorno e talvolta di notte. Di giorno andavamo sul prato. Occorreva più spazio perché gli spettatori erano numerosi quanto i ballerini. Di solito i ballerini formano un unico grande circolo, o due o tre circoli più piccoli, e saltano su e giù, la testa riversa all'indietro, o battono i piedi a tempo, lanciandosi avanti su un piede e poi arretrando sull'altro. Oppure procedono torno torno, lentamente, con solennità, il viso sempre rivolto al centro del cerchio, dove i danzatori più importanti, isolati, eseguono balzi e corse e scene mimiche. Dopo un goma di giorno, sul prato restavano tutte le impronte, anelli che scomparivano lentamente, più grandi e più piccoli, bruni, disseccati, come se l'erba fosse stata bruciata. Le engomas diurne somigliano più ad una fiera che a un ballo. Sciami di spettatori seguivano i ballerini e andavano a radunarsi sotto gli alberi. Talvolta, se la notizia era arrivata fino in città, vedevamo comparire le donne di mondo di Nairobi, chiamate con bella parola swahili le malaya, in pompa magna, sulle portantine a mulo dell'Alican, a volte in drappi di cotone dai larghi disegni a colori vivaci. Sedute parevano grandi fiori sull'erba. Le ragazze perbene della fattoria, con le gonne e le mantelle di pelle ingrassata, andavano a sederglisi accanto, discutendo ad alta voce di quelle vesti e di quelle maniere raffinate, ma le bellezze cittadine seguitavano a fumare i loro piccoli sigari con le gambe incrociate, impassibili come pupattole di legno nero, dagli occhi di vetro. Sciami di bambini estasiati dalle danze e smaniosi di imparare e di imitare, imperversavano da un cerchio ad un altro o andavano a comporre piccoli cerchi per conto loro, ballando e saltando ai margini del prato. Per la festa i kikuyu si dipingevano il corpo con un gesso speciale, rosso pallido, molto usato e richiesto in commercio, che dà loro un aspetto stranamente biondo. Un colore non del mondo animale né di quello vegetale, sembrano fossili, figure intagliate nella roccia. Le ragazze se ne cospargono le vesti modeste di cuoio ornate di perline, diventando tutt'uno con esse, statue avvolte in drappeggi delicati, opera di un abile artista. Gli uomini si presentano nudi. Tutta la cura è nell'acconciatura dei capelli, sciolti o stretti in treccine, tinti col gesso. Tengono eretta la testa, che pare di pietra. Gli ultimi anni il governatore aveva proibito l'uso del gesso sul capo. L'effetto, invece, negli uomini e nelle donne era straordinario. Diademi di brillanti e alte decorazioni non potrebbero conferire la stessa apparenza di gala. Quando anche di lontano si scorge un gruppo di kikuyu tinti di quel rosso passare in fila indiana per la campagna, si sente l'atmosfera vibrare festosamente. Un ballo di giorno all'aperto è danneggiato dalla mancanza di limiti. Il palcoscenico è veramente troppo vasto. Dove comincia e dove finisce? Anche dipinte da capo a piedi, con la lunga coda di struzzo fluttuante dietro la testa e speroni di pelo di scimmia ai piedi, le piccole figure dei danzatori sembrano sempre sparpagliate e sperdute sotto quei grandi alberi. Tutti quei cerchi di ballerini, grandi e piccoli, i gruppi sparsi degli spettatori e i bambini che corrono su e giù costringono lo sguardo a vagare continuamente da un punto all'altro. L'intera scena somiglia a certi vecchi quadri di battaglie viste dall'alto di un poggio. Da un lato avanza la cavalleria, dall'altro si apposta l'artiglieria. Figurine isolate di ufficiali galoppano in diagonale. Le engomas di giorno erano, fra l'altro, molto rumorose. Spesso, in mezzo al chiasso degli spettatori, non si distingueva più nemmeno la musica dei flauti e dei tamburi. Quando in una delle figurazioni eseguite dai soli maschi un morano saltava o vibrava la lancia in modo particolarmente elegante, le ballerine lanciavano uno strano urlo lungo e acuto. Il brusio dei vecchi intenti a discutere fra loro sull'erba non cessava un istante. Era un piacere vedere due vecchissime kikuyu spassarsela davanti a una coppia di calabash assorte in allegre chiacchiere. Probabilmente parlavano dei giorni lontani in cui anch'esse avevano brillato nelle danze, i visi sempre più raggianti di felicità, mentre col volgere del pomeriggio il sole continuava a calare, insieme alla riserva di tembu dentro il calabash. Talvolta, se il vecchio sposo si avvicinava, una di loro, trascinata dai ricordi di giovinezza, si alzava in piedi vacillando, agitando le braccia, accennando qualche passo di danza nel più perfetto stile Ndito. Gli spettatori non le badavano, ma il gruppetto dei vecchi suoi coetanei l'applaudiva entusiasticamente. Le ngomas notturne, invece, venivano allestite con maggiore serietà. Si tenevano soltanto d'autunno, dopo il raccolto del mais, durante la luna piena. Ormai, credo, non avevano alcun significato religioso. Un tempo certamente sì. Tutto l'atteggiamento degli esecutori e degli spettatori evocava un momento sacro e misterioso. Le danze erano come danze antiche di 1000 anni. Alcune, approvate pienamente dalle madri e dalle nonne dei ballerini, venivano considerate immorali dai coloni bianchi. Secondo loro avrebbero dovuto essere proibite per legge. Una volta, tornando da una vacanza in Europa, trovai che 25 dei miei giovani guerrieri erano stati mandati in prigione dal mio amministratore proprio prima della raccolta del caffè, perché durante un'angoma notturna avevano eseguito una danza proibita. La moglie dell'amministratore, pare, non poteva tollerarla. Quando rimproverai gli squatters per aver tenuto la festa vicino alla casa dell'amministratore, mi spiegarono gravemente che avevano ballato nella maniata di Kategu, distante 4-5 miglia. Dovetti recarmi a Nairobi per discutere la faccenda col commissario distrettuale e far rilasciare i giovani che tornarono al lavoro del raccolto. Le danze notturne erano uno spettacolo bellissimo. Il palcoscenico, unico, aveva una cornice precisa, nasceva dai fuochi e giungeva fin dove giungeva la loro luce. Il fuoco in realtà era il principio centrale dell'angoma. Non che fosse necessario per la danza, perché la luce della luna sugli altipiani dell'Africa è meravigliosamente limpida e bianca, ma serviva a creare un effetto, trasformando lo spiazzo del ballo in un teatro mirabile, dove colori e movimenti si fondevano in un tutto unico. Di rado gli indigeni esagerano un effetto, non accendevano grandi falò. Il giorno prima del ballo, le donne degli squatters che si consideravano le padrone di casa portavano la legna nel luogo prescelto, ammucchiandola al centro. Le vecchie, che onoravano la festa con la loro presenza, si sedevano intorno alla catasta centrale, che per tutta la notte serviva ad alimentare tanti piccoli fuochi come una corona di stelle. Intorno, sullo sfondo della foresta notturna, i ballerini eseguivano le loro danze. Lo spiazzo doveva essere abbastanza grande perché la vampa e il fumo non irritassero gli occhi degli spettatori, ma restava sempre un luogo cintato nel mondo, come una grande casa dove potevano abitare tutti insieme. Gli indigeni non hanno né il senso né il gusto del contrasto. Il cordone ombelicale della natura per loro non è mai stato reciso. Facevano le loro ngomas solo con la luna piena. Quando la luna dava il meglio di sé, anche loro davano il meglio. Quando la loro terra nuotava nella luce delicata e potente del cielo, aggiungevano alla grande illuminazione il loro piccolo barbaglio rosso vivo. Gli ospiti arrivavano a gruppetti, a volte solo in tre, a volte fino a 12, anche 15, amici che si erano dati appuntamento o si erano incontrati lungo la strada. Molti ballerini avevano fatto più di 25 km a piedi. Quando erano in gruppo si portavano flauti e tamburi. Così la notte del grande ballo tutta la strada e tutti i viottoli risuonavano ed echeggiavano della loro musica, come percorsi da campanelle tintinanti sotto la luna. Arrivati al cerchio della danza, si fermavano, aspettando che si aprisse per accoglierli. Talvolta, quando venivano di molto lontano o erano figli di grandi capi dei dintorni, andava a riceverli uno squatter anziano, uno dei primi ballerini o uno dei sorveglianti del ballo. I sorveglianti dell'angoma erano giovani della fattoria come gli altri, ma avevano il compito di far rispettare il cerimoniale e tenevano molto alla loro posizione. Prima che il ballo avesse inizio, passeggiavano solennemente su e giù davanti ai ballerini, la fronte aggrottata e il viso grave. Via via che la danza diventava più animata, correvano da un punto all'altro del cerchio per sorvegliare che tutto andasse bene. Erano efficacemente armati, Portavano delle verghe strette in fascio, immergendone di tanto in tanto la punta nel fuoco per mantenerle sempre ardenti. Sempre vigili, tenevano d'occhio i ballerini. Appena scorgevano qualcosa che non andava, con espressione feroce e un ringhio terribile, lanciavano l'intero fascio di punta contro il trasgressore. Spesso, sotto il colpo, la vittima si piegava in due, ma non emetteva un lamento. Forse era un onore riportare dall'angoma una di quelle bruciature. In una delle danze, le fanciulle si appoggiavano pudicamente sui piedi dei giovani guerrieri, cingendoli alla vita, mentre essi, le braccia protese sopra la testa delle loro dame, brandivano con entrambe le mani la lancia, puntandola verso l'alto e poi sbattendola violentemente sul suolo. Pareva, nella bella figurazione, che le fanciulle cercassero rifugio da qualche grave pericolo sul petto dei loro uomini che per proteggerle le tenevano addirittura sui piedi, difendendole dai serpenti e da tutte le minacce del cielo e della terra. La danza durava per ore, i visi dei ballerini prendevano un'espressione di angelica estasi, come veramente pronti a morire l'uno per l'altro. Altre volte i danzatori correvano qua e là, in mezzo ai fuochi. Al centro, un capo ballerino faceva salti acrobatici e balzi altissimi fra un grande oscillare di lance. Credo fosse una danza ispirata alla caccia del leone. Oltre ai flauti e ai tamburi c'erano anche i cantori all'engomas. Alcuni famosi in tutto il paese venivano appositamente da posti lontani. Più che cantare, recitavano a ritmo. Veri improvvisatori creavano le loro ballate seguendo l'ispirazione del momento. Subito il coro attento dei ballerini li accompagnava. Era piacevole sentire levarsi nell'aria notturna la voce del cantore seguita dal richiamo ritmico dei giovani ballerini. Seguitava tutta la notte, accompagnato di tanto in tanto dalla musica dei tamburi. Diventando monotono e insieme stranamente tormentoso, pareva di non poter più tollerare che durasse un attimo in più, né che finisse. Il cantante più famoso ai miei tempi veniva da Dagoretti, aveva una voce chiara e forte. Grande ballerino, cantando, avanzava veloce o lentamente nel cerchio dei danzatori con movimenti lunghi e sinuosi, quasi inginocchiandosi ad ogni passo e tendendo il palmo della mano sull'angolo della bocca, probabilmente per raccogliere il suono, ma l'effetto era come se confidasse all'assemblea un grande, pericoloso segreto. Pareva l'eco stessa dell'Africa. Sapeva trascinare i suoi spettatori alla gioia o a un'esaltazione guerresca o spingerli a un vero convulso di risa. Cantava una canzone formidabile, un canto di guerra in cui credo immaginava di correre da villaggio a villaggio, spronando la nazione alla guerra, descrivendo il massacro e il saccheggio. 100 anni prima avrebbe fatto gelare il sangue ai coloni bianchi. Ma di solito non era così terrificante. Una notte cantò 3 canzoni che chiesi a Camante di tradurmi. La prima era una fantasia. Immaginava che tutti i danzatori, impossessatisi di una nave, salpassero per la volaia. La seconda, mi spiegò Camante, era il lode delle vecchie donne, le madri e le nonne dei danzatori. Mi parve una canzone molto dolce e lunga, probabilmente descriveva la saggezza e la gentilezza delle vecchie mogli Kikuyu, calve e sdentate, che ascoltavano accanto alla pila di legna nel mezzo del cerchio, annuendo col capo. La terza era breve, ma provocò grandi scoppi di risa fra tutti i presenti. Per farsi sentire, il cantore doveva alzare la voce già squillante e rideva anche lui mentre cantava. Le vecchie, messe ormai di buon umore da tante lusinghe, si battevano le cosce, spalancando la bocca come coccodrilli. Camante non volle tradurmela, disse che era senza senso e si limitò a riassumerla in poche parole. L'argomento era semplice. Dopo l'ultima epidemia, il governo aveva offerto una mancia per ogni topo morto consegnato al commissariato. La canzone descriveva come i topi perseguitati andassero a rifugiarsi nei letti delle donne della tribù e cosa succedesse là dentro. I dettagli che non afferravo dovevano essere esilaranti. Lo stesso Camante, pur traducendomela controvoglia, non riusciva a reprimere un lieve sorriso. Una notte, durante un angoma, vi fu un incidente drammatico. Era una festa d'addio in mio onore. Dovevo partire per un breve soggiorno in Europa. Avevamo avuto una buona annata e la festa si svolgeva in grande stile. Partecipavano almeno 1500 Kikuyu. Il ballo durava da ore. Prima di andare a letto, tornai fuori ad assistere ancora un poco. Mi portarono una poltrona davanti alla capanna di un domestico e due vecchi squatters vennero a tenermi compagnia. D'un tratto una grande eccitazione si propagò fra i ballerini. Un moto profondo di sorpresa e di paura, un fruscio curioso come quando il vento corre fra i giunchi. Il ballo diventava sempre più lento, ma continuava. Chiesi ad uno dei vecchi che cosa stesse succedendo. Mi rispose in fretta, a bassa voce: Masai Nakudia. Arrivavano i Masai. Lì per lì non accadde nulla. La notizia evidentemente era stata portata da un messaggero e i Kikuyu l'avevano rimandato indietro a dire che erano pronti a ricevere gli ospiti. La legge proibiva ai Masai di intervenire all'Engomas Kikuyu. Ogni volta che vi avevano partecipato avevano provocato troppi guai. I ragazzi di fattoria si raccolsero intorno a me, tutti guardavano verso la strada. All'apparire dei Masai la danza cessò del tutto. Erano 12 giovani guerrieri. Fatto qualche passo, si fermarono in attesa, senza guardare né a destra né a sinistra. Sbattevano appena le palpebre verso il fuoco. Tranne le armi e le magnifiche acconciature del capo erano nudi. Uno portava la testa di leone che il guerriero Morano porta in guerra. Dal ginocchio al piede avevano dipinta una larga striscia scarlatta, come gli scorresse il sangue lungo la gamba. Stavano eretti, le gambe rigide, il capo all'indietro, silenziosi e mortalmente gravi nell'atteggiamento allo stesso tempo del conquistatore e del prigioniero. Si aveva la sensazione che fossero venuti all'angoma contro la loro stessa volontà. Il suono monotono dei tamburi, martellando senza tregua, aveva passato il fiume ed era giunto fino alla riserva, turbando il cuore dei giovani guerrieri. 12 di loro non avevano potuto resistere al richiamo. Anche i Kikuyu erano agitati, ma si comportarono bene con gli ospiti. Il capo danzatore li invitò a far parte del cerchio. Vi entrarono, sempre in silenzio. La danza ricominciò, ma non pareva più la danza di prima. C'era una tensione nell'aria. Il suono dei tamburi si fece più alto, più rapido. Se l'angoma fosse continuata, forse avremmo assistito a uno spettacolo eccezionale. Kikuyu e Masai si sarebbero messi d'accordo a mostrare la loro forza e la loro abilità nella danza. Ma finì troppo presto. Ci sono cose che non possono compiersi, malgrado la buona volontà di tutti. Che successe? Non so. D'un tratto il cerchio si agitò, si ruppe, qualcuno lanciò un grido e in pochi istanti lo spiazzo davanti a me si trasformò in una bolgia di gente che correva e si accalcava in un frastuono di colpi e di corpi che cadevano a terra. Sulle nostre teste l'aria si riempì di lanci ondeggianti. Tutti balzarono in piedi, persino le vecchie raggruppate al centro che montarono sui mucchi di legna per vedere meglio. Quando l'agitazione si placò e la calca si disperse di nuovo, mi trovai circondata da una folla che si teneva a breve distanza. Due vecchi squatters mi si avvicinarono. Con riluttanza mi spiegarono che i Masai avevano violato la legge e turbato l'ordine. Un guerriero Masai e tre donne Kikuyu erano ferite gravemente. Tagliate a pezzi, dissero. Ero disposta? Chiesero con gravità a ricucirli? Altrimenti avrebbero passato tutti un brutto guaio con Selikali, il governo. Domandai al vecchio cosa si erano tagliati. La testa, rispose con orgoglio, per quel gusto istintivo della catastrofe che hanno gli indigeni. In quel momento vidi arrivare Camante. Aveva in mano un ago da rammendo con una lunga agugliata e un ditale. Esitavo quando si fece avanti il vecchio Awaru. Nei 7 anni passati in carcere aveva imparato a fare il sarto. Probabilmente aspettava solo l'occasione di mettere in mostra le sue capacità. Si offrì spontaneamente di assumersi l'incarico. Subito tutto l'interesse si concentrò su di lui. Ricucì per davvero i feriti, che sotto le sue mani guarirono. Spesso in seguito vantava il suo successo, ma Camante mi confidò in segreto che teste tagliate non ce n'erano state. I Masai, per legge, non avrebbero dovuto venire al ballo. E fummo costretti a tenere il ferito nascosto per parecchio tempo nella capanna riservata ai domestici degli ospiti bianchi. Quando guarì, scomparve senza nemmeno dir grazie. Deve essere duro per un masai farsi ferire e curare da un kikuyu. Quando verso l'alba uscii per chiedere notizie dei feriti, trovai i fuochi ancora accesi nell'aria grigia del mattino. Intorno alcuni giovanotti kikuyu saltavano, attizzando la brace con lunghi stecchi, sotto la direzione di una vecchissima squatter, la madre di Wainaina. Facevano una malia perché il masai non avesse successo in amore con le ragazze kikuyu. Capitolo 2. Un visitatore dall'Asia. Le Ngomas erano feste tradizionali in uso fra buoni vicini. Col trascorrere degli anni cominciarono a venirci i fratelli e le sorelle minori e poi i figli e le figlie dei danzatori che avevo conosciuto le prime volte. Ma arrivavano visitatori anche da paesi lontani. Il monsone spira da Bombay. Vecchi saggi e pieni di esperienza facevano tutto il viaggio per mare dall'India e capitavano alla fattoria. A Nairobi viveva un grosso commerciante di legname, un indiano che si chiamava Choleim Hussein. Avevamo fatto parecchi affari insieme i primi tempi, quando la terra doveva essere disboscata per la coltivazione. Era un maomettano fervente e amico di Farah. Un giorno venne a chiedermi il permesso di accompagnare alla fattoria un grande sacerdote indiano. Il sacerdote aveva affrontato quel lungo viaggio per mare, disse Choleim Hussein, per visitare le congregazioni maomettane di Mombasa e Nairobi. Le congregazioni, dal canto loro, desideravano riceverlo degnamente. Dopo essersi spremute il cervello, non avevano trovato niente di meglio da offrirgli che una visita alla fattoria. Avevo nulla in contrario? Sarebbe stato il benvenuto, dissi. Allora Choleim Hussein mi spiegò che il rango e la santità del vecchio gli vietavano di mangiare cibo cucinato in una pentola servita anche una sola volta agli infedeli. Ma non dovevo preoccuparmi per questo. La congregazione maomettana di Nairobi aveva preparato il pranzo e me l'avrebbe mandato all'ora giusta. Avevo nulla in contrario se il grande sacerdote lo consumava in casa mia? No, risposi. Ma dopo un istante, visibilmente imbarazzato, Choleim Hussein riprese il discorso. C'era un'altra cosa, una sola. L'etichetta imponeva che dovunque si recasse, il grande sacerdote ricevesse un'offerta, e in una casa come la mia non poteva essere meno di 100 rupie. Però non dovevo spaventarmi, si affrettò ad aggiungere. I maomettani di Nairobi avevano già raccolto la somma e mi chiedevano che gliela regalassi, io. Ma chiesi, avrebbe creduto che venisse da parte mia? Su questo punto non riuscii a cavare da Choleim Hussein nessun chiarimento. In certi casi la gente di colore non può che essere vaga, anche a costo della propria vita. Lì per lì non volevo accettare. Ma al vedere le facce deluse di Choleim Hussein e di Farah, poco prima raggianti di speranza, misi da parte il mio orgoglio. Va bene, il grande sacerdote pensasse pure quello che voleva. Il giorno della visita mi colse alla sprovvista. Avevo dimenticato tutto ed ero andata nei campi a provare il mio nuovo trattore. Titi, il fratellino di Camante, fu spedito a chiamarmi. Nel gran frastuono della macchina non capivo una parola dei suoi discorsi. D'altronde era così difficile far partire il trattore che non avevo il coraggio di arrestarmi. Titi mi correva a fianco come un cucciolo impazzito, smaniando e ansando tra i solchi profondi nella lunga scia del polverone. Finalmente, in fondo al campo mi arrestai. Sono arrivati i sacerdoti, mi gridò. Quali sacerdoti? Chiesi. Tutti, spiegò con orgoglio. Erano arrivati su 4 carri, 6 per carro. Tornammo insieme. Davanti alla casa vidi uno sciame di gente vestita di bianco, sparsa sul prato, come uno stormo di grandi uccelli in riposo o una schiera di angeli calati sulla fattoria. Un'intera corte spirituale doveva essere venuta dall'India per tener viva la fiamma dell'ortodossia in Africa. Ma era impossibile non riconoscere il grande sacerdote. Mi venne incontro, scortato da 2 subordinati e seguito a rispettosa distanza da Choleim Hussein. Era un vecchio piccolo dal viso fine e delicato, che pareva scolpito in un avorio antichissimo. I seguaci si avvicinarono per assistere al nostro incontro, poi si ritirarono. Dovevo intrattenere da sola il mio ospite. Non potevamo scambiarci nemmeno una parola. Lui non capiva l'inglese né il swahili, io non conoscevo la sua lingua. Il nostro reciproco rispetto dovevamo esprimerlo a gesti. Vidi che gli avevano già fatto visitare la casa, tutto il vasellame era stato allineato sulla tavola, i fiori erano disposti nei vasi secondo il gusto somalo e indiano. Andammo a sederci insieme sul sedile di pietra, verso ponente. Là, sotto gli occhi attenti degli spettatori che trattenevano il fiato, consegnai le 100 rupie avvolte in un fazzoletto verde appartenente a Cholei Mussein. La meticolosità cerimoniosa che circondava il grande sacerdote mi aveva infastidita all'inizio. Ora, nel vederlo così vecchio e minuto, pensai che la situazione dovesse essere opprimente anche per lui. Ma poi, mentre stavamo seduti tutti e due nel sole del pomeriggio, senza fingere nemmeno di conversare, solo tenendoci compagnia con spirito cordiale, compresi che nulla poteva essere imbarazzante per lui. Dava la strana sensazione di una persona al riparo da qualsiasi minaccia, completamente sicura. Spirava una cortesia delicata. Mentre gli indicavo alberi e colline lontane, sorrideva e annuiva come se tutto lo interessasse e nulla lo potesse sorprendere. Mi chiedevo se quella sua equanimità dipendesse da una totale ignoranza del male del mondo o da una profonda consapevolezza che gli permetteva di accettarlo. Sia che al mondo non esistano serpenti velenosi, ossia che si raggiunga una perfetta immunità iniettandosi nel sangue dosi sempre più forti di veleno, il risultato è sempre lo stesso. Il vecchio, nel suo sguardo sereno, aveva l'espressione di un bambino che ancora non sa parlare e si interessa a tutto, ma che per l'ordine naturale delle cose è incapace di sorprendersi. Non diversamente avrei passato tutta quell'ora pomeridiana sul sedile di pietra insieme a un bimbo in fasce, un nobile infante, il bambino Gesù dipinto da un antico maestro, imprimendo di tanto in tanto un movimento alla culla con il piede dell'anima. Il viso delle donne molto vecchie, che hanno visto e capito tutto il mondo, può avere la stessa espressione. Non è un'espressione maschile. Adatta alle fasce e agli abiti femminili, si intonava benissimo alla bella tunica di cashmere bianco del mio ospite. Solo un'altra volta l'avevo vista in un uomo, al circo equestre, sul volto di un bravo clown. Il vecchio era stanco e non aveva voglia di alzarsi, quando Cholem Hussein accompagnò gli altri sacerdoti al fiume per vedere il mulino. Simile un po' a un uccello, lui stesso mostrava simpatia per tutti i volatili. In quel periodo possedevo una cicogna e un branco di oche. Mi ricordavano l'atmosfera della Danimarca e per questo non finivano in padella. Il vecchio sacerdote le osservava con grande interesse. Cercò di capire di dove venissero, indicando i 4 punti cardinali. Per rendere più perfetta quell'atmosfera da regno dei cieli, i miei cani scorazzavano sul prato. Credevo che Farah e Cholem Hussein li avrebbero tenuti chiusi nel canile perché Cholem Hussein, davvero maomettano, li fuggiva, terrorizzato ogni volta che veniva alla fattoria per affari. Invece stavano gironzolando fra i sacerdoti vestiti di bianco, proprio come il leone accanto all'agnello. Erano i cani che, a detta di Ismail, riconoscevano a prima vista un maomettano. Prima di accomiatarsi, il grande sacerdote mi offrì, a ricordo della sua prima visita, un anello con una perla. Volli anch'io allora regalargli qualcosa. Oltre al finto dono delle 100 rupie, mandai Farah nel magazzino a prendere la pelle di un leone ucciso poco tempo prima alla fattoria. Il vecchio prese in mano uno dei grossi artigli e con occhi limpidi e attenti provò sulla guancia quanto erano affilati. Dopo la sua partenza mi chiesi se con la sua testa nobile e scarna avesse colto ogni minimo particolare entro il nostro orizzonte o nulla di nulla. Qualcosa aveva notato però, perché 3 mesi dopo mi arrivò una lettera dall'India, con grande ritardo a motivo dell'indirizzo sbagliato. Proveniva da un principe indiano che mi chiedeva di vendergli uno dei miei cani grigi, di cui gli aveva parlato un grande sacerdote, e di stabilirne io stessa il prezzo.